Quando te ne andrai, non potrai portarti dietro tutte le mie cose che ti ho dato, le cose dell'amore non si possono tenere, le cose dell'amore non si possono portare. Quando te ne andrai, tu non potrai vedermi addosso tutto quanto il male che mi hai fatto, le ferite dell'amore vedono per niente e nessuno si accorge che io sono ferito. Quando te ne andrai, io morirò in un momento solo, ma non te ne accorgerai per niente. Le cose dell'amore non esistono per niente. Quando muori, io no, mai nessuno se ne accorge.